La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla storia della festa del 1° maggio, giornata dedicata al lavoro e ai lavoratori che si celebra da ben 132 anni. Ospite ai nostri microfoni Francesco Renda, docente di storia moderna all'Università di Palermo. Nella seconda parte vi proponiamo un radiodocumentario sull'intervento dei kamikaze giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domani alle 4.45. Ma adesso la parola va a Dino Pesole. Da 123 anni si celebra la festività del 1° maggio. Come sappiamo, è la festa dedicata al lavoro, ai lavoratori, che vale la pena di ricordarlo, è un valore scolpito nella nostra Costituzione. Giornata che, come di consueto, è stata celebrata ieri dai sindacati, prima di tutto dalle forze politiche, sociali e produttive del paese. La rievocazione affonda le sue radici nell'Ottocento, con le dure battaglie operaie per la conquista dell'orario di lavoro quotidiano di 8 ore rispetto alle 14, anche 15 ore, cui erano costretti a lavorare i lavoratori in fabbrica. Come ricorda il libro di Francesco Renda, Storia del 1° maggio, l'evento storico da cui presero slancio le rivendicazioni degli operai americani è il congresso di Baltimora del 20 agosto 1886, che si chiuse con una solenne dichiarazione, di fatto la piattaforma rivendicativa del movimento sindacale. Il primo risultato di questa azione fu l'approvazione nel 1886 nello stato dell'Illinois di una legge che sanciva la giornata di 8 ore per i dipendenti delle opere gestite o controllate da enti pubblici. Poiché l'applicazione della legge era fissata per il 1° maggio 1867, la National Labor Union indisse a Chicago una grande manifestazione, la più imponente mai realizzata negli Stati Uniti. Da essa prese avvio la decisione di indire per il 1° maggio lo sciopero operaio generale americano del 1886. Circa 340.000 operai scioperarono a New York, Pittsburgh, Baltimora, Washington, St. Louis, Chicago. Lo slogan era: a partire da oggi, nessun operaio dovrà più lavorare oltre le 8 ore al giorno. 8 ore di lavoro, 8 di riposo, 8 di educazione. Ovunque le manifestazioni si svolsero senza incidenti, tranne che a Chicago. Scioperarono 80.000 operai. 2 giorni dopo, davanti ai cancelli della fabbrica McCormick, 200 poliziotti, senza alcun preavviso, spararono sui manifestanti ad altezza uomo. 6 morti e 50 feriti. Il 4 maggio, nuovi scontri che provocarono 14 morti e 50 feriti. A Parigi, il Congresso socialista approvò nel 1889 una risoluzione in cui si proponeva di trasformare il 1° maggio americano in giornata internazionale del lavoro in tutti i paesi del mondo. Dagli Stati Uniti all'Europa, dunque, il vento della protesta, delle rivendicazioni operaie per ottenere condizioni più umane di lavoro aveva dato avvio a un vasto movimento di protesta a livello internazionale. In Italia, la decisione dei delegati socialisti della Seconda Internazionale di Parigi venne ratificata nel 1891. Da allora, se si eccettua la lunga notte del ventennio fascista, la festa del lavoro è stata sempre celebrata il 1° maggio, festa che ha coinciso anche con tragici eventi che hanno segnato la nostra storia. Il 1° maggio del 1947, festa del lavoro, alcune centinaia di lavoratori dei comuni di San Giuseppe Iato, San Cipirello e Piana degli Albanesi si riuniscono a Portella della Ginestra, nei pressi di Palermo. Il primo oratore ha appena finito di parlare quando si odono i primi spari provenienti dai roccioni del Pelavet. Qualcuno applaude, pensando ai mortaretti che danno inizio alle feste popolari. La realtà, purtroppo, è tragicamente diversa. Sono spari d'arma da fuoco, di una o più mitragliatrici, che nel breve volgere di qualche minuto uccidono alla rinfusa, tra la folla. Il bilancio è tragico. 11 morti, tra cui 2 bambini, 27 feriti. La strage di Portella della Ginestra è ormai comunemente definita come la prima strage di Stato dell'Italia repubblicana. A sparare dalle alture sulla folla erano stati gli uomini del bandito Salvatore Giuliano, ma alla strage non furono estranei, secondo molte versioni, i servizi segreti americani, come attesta questo estratto dal rapporto politico classificato come segreto redatto il 1 maggio del 1947. La vittoria del blocco del popolo nelle recenti elezioni siciliane viene considerata il barometro dell'insoddisfazione popolare in rapporto al presente governo. La sinistra non nasconde la sua fervida attività nel fomentare scioperi, disordini e nel diffondere la propaganda comunista tra gli insoddisfatti e i disoccupati di tutta l'Italia. Con l'obiettivo di tenere alta la tensione tra le masse, l'estrema sinistra ha fatto circolare voci su un'offensiva comunista in Italia, nel caso in cui si verifichi uno scontro armato tra i blocchi dell'Est e dell'Ovest. Fonti solitamente attendibili ci hanno riferito le seguenti informazioni. Nel caso di una crisi internazionale che potrebbe degenerare in un conflitto armato tra l'Unione Sovietica e gli anglo-americani, il PCI farà ricorso a ogni mezzo per prendere il potere, arrivando a richiedere l'intervento delle truppe russo-jugoslave schierate sulla frontiera orientale italiana. Per tale obiettivo sono già pronti 150.000 soldati dei corpi speciali. Abbiamo in linea Francesco Renda, che è l'autore del libro Storia del primo maggio, pubblicato da EDS, di cui abbiamo parlato già nella prima parte del nostro approfondimento. Professor Renda, ci spieghi il significato profondo del primo maggio? Ma il significato profondo lo si può tradurre in un'espressione. Considerata la storia del movimento operaio, noi abbiamo una preistoria e una storia. La preistoria è tutto il secolo che precede la creazione del primo maggio. La storia comincia con la creazione del primo maggio, perché con la creazione del primo maggio il movimento operaio entra finalmente nella storia della civiltà europea. Noi, professor Renda, nella nostra ricostruzione abbiamo anche ricordato come ci siano state delle celebrazioni del primo maggio nella storia italiana funestata da tragici eventi, ad esempio il primo maggio del 47 con la strage di Portella della Ginestra. A suo avviso si è cominciato un po' a fare luce su quel che avvenne? Su Portella della Ginestra la luce si poteva fare nell'immediato con le indagini necessarie, le quali non vennero fatte e non si vollero fare, e quindi non si è potuto avere un giudizio concreto se fosse un delitto di mafia, un delitto di banditismo di mafia o un delitto di Stato. Poi finalmente il fatto che il ministro degli interni abbia impedito che si facesse una indagine di questo genere ha fatto sì che sul primo maggio, circa le responsabilità, è rimasta un'oscurità alla quale non è dato ancora provvedere. Quanto ai valori, diciamo, che ogni anno vengono rievocati quando si celebra il primo maggio, ad esempio il valore fondamentale del lavoro, che poi è scolpito nella nostra Costituzione, lei ritiene che ci sia, diciamo, sufficiente sensibilità oggi da parte dell'opinione pubblica del valore forte che ha questo elemento per la nostra, diciamo, società, per la nostra vita collettiva? Non è una storia lineare. Ogni primo maggio rappresenta un momento, una tappa che riflette le condizioni del momento stesso, cioè la situazione politica, ma anche la condizione in cui vive la classe operaia. Ora, il primo maggio di oggi, va bene, risente della caduta che si è avuta nel 1990. Da allora in poi, pensi lei che il mondo è stato, come dire, sovrastato dalla teoria di Reagan, con tutte le conseguenze che ne sono implicate. Da allora in poi il mondo operaio ha perduto delle posizioni che già aveva conquistato. Ciò che prima aveva ottenuto adesso via via lo ha perduto e quindi si pone il problema di ripristinare il ruolo originario del primo maggio proprio per riconquistare il perduto. Ma io penso ancora di più. Noi siamo in una fase in cui il capitalismo ha bisogno di una riforma profonda. Certo. Questa riforma per il momento viene pensata sotto il profilo delle regole del mercato e del profitto, della finanza, eccetera. Non è pensata invece sotto il profilo delle regole dello sviluppo del mondo del lavoro. Mm. E il mondo del lavoro deve avere una funzione decisiva, perché la civiltà europea, la civiltà capitalistica, è così sviluppata, è così avanzata, perché vi è stato il movimento operaio che l'ha costretta a cambiare. Se 8 ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e comandare, e sentirete la storia e la memoria. Ben ritrovati. Il radiodocumentario che vi proponiamo questa sera è dedicato all'intervento dei kamikaze durante il secondo conflitto mondiale, un'arma terrificante figlia della disperazione. Anche se questo genere di attacchi arriva troppo tardi per cambiare le sorti della guerra, il loro impatto è devastante. I piloti giapponesi sacrificano la propria vita trasformandosi in devastanti bombe umane. Nel corso di circa 2.800 attacchi perdono la vita quasi 5.000 soldati americani, altri 4.800 restano feriti. Si pensa che in caso di un'invasione del paese, il Giappone aveva pronti più di 5.000 aerei da impiegare in missioni suicide. Uno scenario agghiacciante che avrebbe amplificato le immense perdite umane sostenute durante l'ultima parte del conflitto. Vi segnaliamo che la versione integrale del documentario andrà in onda su History Channel domani alle 4.45. 25 ottobre 1944, ore 10. 9 aerei giapponesi, modello Zero, fanno rotta verso il Golfo di Leyte, nelle Filippine. I caccia volano a pelo d'acqua per evitare i radar americani. La loro è una missione speciale, storica, ma terribile. È il primo attacco kamikaze organizzato della Seconda Guerra Mondiale. Al posto del consueto serbatoio di carburante a lungo raggio, 5 di loro trasportano una bomba da 250 kg. Il peso in eccesso li rende inadatti agli scontri ravvicinati. Perciò altri 4 agiscono da scorta. L'asso dell'aviazione Kunio Iwashita ha partecipato a missioni analoghe. Ero un pilota da caccia. Quindi il mio compito era di accompagnare le squadriglie kamikaze impegnate in attacchi e di abbattere eventuali avversari americani. Inoltre, dovevamo osservare gli effetti di quelle azioni e fare rapporto alla base su ciò che avevamo visto. Alla guida della missione c'è il tenente Yukio Seki. All'ordine di stanare le navi che proteggono le forze alleate impegnate nell'invasione delle Filippine. Una piccola squadra chiamata Taffy 3. Qualche ora prima ha dovuto respingere un pesante attacco della marina giapponese. La portaerei di scorta, la USS St. Lowe, è una delle poche unità americane a essere uscita indenne dalla violenta battaglia. Sull'unità stanno rientrando gli aerei reduci dagli scontri della mattinata. Vengono portati sotto coperta per il riarmo e il rifornimento. Nessuno può immaginare quello che sta per accadere. Orville Bethard è un aiuto elettricista a bordo della St. Lowe. Non sapevo nulla dei kamikaze, ne avevo sentite tante, ma non avrei mai pensato che qualcuno potesse fare di proposito una cosa del genere. Ore 10:45. I kamikaze individuano le ignare navi americane. Salgono velocemente a 1500 metri, preparandosi a una veloce picchiata. I piloti giapponesi scelgono gli obiettivi. I vulnerabili ponti di volo delle portaerei di scorta. Queste unità diventano il loro bersaglio preferito, perché hanno un sottile ponte di volo in legno che può essere penetrato facilmente dagli aerei nipponici. Alle 10:49 il tenente Seki decide di attaccare. Fa oscillare le ali per dare il segnale. Mentre picchia sulla USS White Plains, Seki viene colpito dall'antiaerea e devia verso la Saint Louis. Un americano sopravvissuto all'attacco. Ci avevano già attaccato dei bombardieri da picchiata, ma questo volava davvero basso. Puntava dritto su di noi, come se volesse atterrare sul ponte. Finalmente qualcuno dietro di me ha aperto il fuoco con una mitragliatrice da 20 mm. Forse lo ha colpito, ma non lo ha fermato. Il capitano Francis McKenna ordina una virata a tutto timone verso destra. Ma la nave è lenta a rispondere. Sarà andato a 500 km orari. Ci è arrivato addosso in pochi secondi. Puoi provare a virare, ma non serve granché. Alle 10:53, Seki irrompe da poppa e si schianta sul ponte di volo della Saint Louis. Non ho sentito il contraccolpo dell'esplosione, ma ho visto la fiammata. Ho fatto appena in tempo ad accucciarmi. Il fuoco mi ha sfiorato la testa. La bomba perforante di Seki penetra attraverso il ponte di legno ed esplode all'interno. James Horn Fisher, autore di The Last Stand of Tin Can Sailors. Subito dopo l'aereo è esploso sul ponte hangar e ha scatenato una reazione a catena. Da una parte scoppiava un siluro, dall'altra un deposito di carburante. In pochi secondi mezzo ponte era in fiamme. Gli uomini bruciavano vivi. Una scena orribile. L'equipaggio cerca di domare il violento incendio. Ma appena 7 minuti dopo il primo attacco kamikaze, la Saint Louis è già condannata. Il capitano McKenna ha dato l'ordine di abbandonare la nave. Gli uomini si sono buttati in acqua, allontanandosi a nuoto per evitare che il relitto, affondando, li risucchiasse sul fondo. Alle 11:20, un'ottava detonazione. Questa volta è il deposito delle bombe. Lo scoppio squarcia lo scafo. Un americano sopravvissuto all'attacco. Dall'acqua ho sentito una violenta onda d'urto. Mi sono girato per guardare e ho visto che la nave si era inclinata così. E stava colando a picco di poppa. Non so quanti fossero ancora all'interno. E ho pensato addio alla mia casa. Alle 11:25, quella che un tempo era l'orgogliosa Saint Louis si inabissa. Di 114 degli 850 membri dell'equipaggio si perdono le tracce. È la prima unità americana affondata dai kamikaze. Una scena drammatica che si ripeterà quasi per 3.000 volte prima della fine della guerra e costerà la vita a 5.000 uomini. L'idea degli attacchi suicidi viene presa in considerazione per la prima volta circa 20 mesi prima, nel febbraio del 43, dopo l'umiliante sconfitta di Guadalcanal. James Horn Fisher, autore di The Last Stand of Tin Can Sailors. Il programma fu frutto della disperazione. I giapponesi si erano resi conto che le tattiche militari convenzionali erano impotenti contro la soverchiante potenza degli americani. Sulle prime la proposta viene considerata disfattista, ma l'invasione alleata delle Filippine spinge i giapponesi a ricorrere anche a questa risorsa estrema. L'obiettivo è di infliggere agli americani perdite sufficienti a minare la loro determinazione. La nuova strategia si chiama TOC. M.G. Sheftall, autore di Blossoms in the Wind. Per l'esattezza era definita Tokubetsu Kogeki, che letteralmente significa attacco speciale. Il vice ammiraglio Takajiro Nishi è incaricato di rendere subito il programma operativo. Arruola dei volontari dal 201esimo Corpo Aeronavale nelle Filippine. Ma non c'è tempo per un addestramento specifico. Molti sono piloti di bombardieri da picchiata. Si spera che la loro esperienza in attacchi quasi in verticale sia adatta a questo tipo di missioni. Non sarà semplice far accettare all'opinione pubblica l'idea di trasformare i figli del Sollevante in bombe umane. Manipolando le tradizioni millenarie del Giappone, l'alto comando fa in modo di associare il Tokko al Bushido, il glorioso codice d'onore dei samurai. Nel cosiddetto codice del guerriero non esiste alcun riferimento ad attacchi suicidi organizzati. L'unica forma codificata è quella che prevede di togliersi la vita per sottrarsi alla cattura da parte del nemico. Ma non c'è nulla che faccia riferimento ad attacchi suicidi. Il successo di quel primo kamikaze del 25 ottobre 1944 dà il via a un'ondata massiccia di missioni. L'esercito e la marina arruolano piloti privi di esperienza e li gettano nella mischia su ogni aereo disponibile. Nell'aprile del 1945, al momento dell'invasione di Okinawa, le azioni dei kamikaze restituiscono la speranza a un paese col morale a pezzi. La storia e la memoria. Continuiamo il radiodocumentario. 16 aprile 1945. 50 kamikaze circondano il cacciatorpediniere USS La Fay. Il gruppo comprende aerei da picchiata Val e Judy e aerosiluranti Kit. Come racconta David Sears, autore del libro The Last Epic Naval Battle, si trattava di aerei datati attrezzati per attacchi suicidi. Erano antiquati, ma potevano essere caricati con esplosivi ed erano relativamente facili da pilotare. Erano perfetti per quello scopo, vale a dire puntare una nave e cercare di colpirla. Al Dorris osserva la terrificante processione dal suo cannone da 40 mm. Praticamente erano dappertutto. Ovunque guardassi c'erano aerei giapponesi. Di colpo, quattro Val rompono la formazione e si lanciano sulla Leffe. Si avvicinavano a pelo d'acqua e uno degli artiglieri ha detto: eccoli là, eccoli, stanno arrivando. Due puntano sulla prua da dritta. Il capitano Julius Beckton ordina una brusca virata di 30 gradi a sinistra per poter schierare tutti i pezzi contro il nemico. Dalla Leffe parte un fuoco di sbarramento antiaereo. Prima la batteria principale, cannoni da 127 mm a guida radar. Mentre si avvicinavano, quelli da 40 mm hanno aperto il fuoco, seguiti dalle mitragliatrici da 20 mm. Cercavamo di fermarli come meglio potevamo. La Leffe abbatte i primi due aerei, ma gli altri due Val si allargano per avvicinarsi da poppa. Uno perde pezzi di fusoliera fino a quando il suo carrello non entra in acqua. I traccianti convergono sul secondo. L'equipaggio non ha il tempo di rifiatare che un Judy sibila a 90 gradi da dritta. È un bombardiere molto veloce che tocca i 550 km orari. Ma questo ha scelto un brutto angolo di picchiata. Viene preso di mira da tutti i cannonieri della Leffe. Ma subito ne arriva un altro dalla parte opposta. La nave ha una velocità massima di 35 nodi e si muove con agilità. Il capitano Beckton ordina una secca virata di 30 gradi. Carl Zingheim, museo della USS Midway. Il bombardiere mitragliava a volo radente, cercando di colpire gli uomini sul ponte di comando. Dunque c'è stato un breve scambio di colpi tra il kamikaze e le batterie contraeree. Ma il Judy non può competere con i cannoni della Leffe. L'aereo si disintegra. Ma la sua bomba esplode in acqua, scagliando schegge letali sulle parti esposte della nave. Il nemico arriva da ogni direzione, usando particolari tattiche affinate dopo mesi di esperienza. I giapponesi sanno che gli attacchi più efficaci sono quelli sferrati con angoli molto alti o molto bassi. Nel primo caso i kamikaze si avvicinano volando a 6.000 metri di quota, per poi scendere fino a 1.500 con un angolo di 20 gradi. Infine eseguono una rapida picchiata a 50 gradi. Nel secondo caso il pilota si avvicina restando sotto i 15 metri per sfuggire ai radar nemici. Una volta vicino all'obiettivo sale a 500 metri per l'ultima picchiata. Poi si affida alla velocità e alla gravità per centrare il bersaglio, anche se colpito dalla contraerea. La missione ideale impiega abbastanza kamikaze per utilizzare nello stesso momento entrambe le tattiche. Proprio come nel caso della Leffe. Alle 8.39 un Val si avvicina da babordo puntando a mezza nave. Con una brusca manovra l'USS Leffe cerca di rendergli la vita difficile. Ora il caccia è un bersaglio più piccolo. Misura 114 metri di lunghezza, ma appena 12 di larghezza. Ancora Carl Zingheim. A quanto pare la mossa si è rivelata efficace, perché il pilota doveva cambiare di continuo la mira per inquadrare il suo obiettivo. Alla fine, a causa delle continue virate, il Val stava arrivando dritto da poppa. Quello tra il caccia torpediniere Leffe e il kamikaze è un vero e proprio duello. Le batterie antiaeree vanno a segno, ma non fermano l'aereo. I serbatoi del bombardiere vengono perforati, lasciandosi dietro una lunga fiammata di carburante. Poi è la volta di un nono kamikaze. Il Val si avvicina volando a pelo d'acqua, impedendo alla batteria principale di inquadrarlo. L'urto investe una batteria da 20 mm situata a mezza nave, uccidendo tre uomini. Un altro arriva da poppa, protetto dalle ondate di fumo. Sotto coperta si scatena l'inferno. Avvolti dalle fiamme, alcuni marinai corrono sul ponte. Jack Fowlas, militare del 51esimo battaglione. Parecchi degli uomini al lavoro sotto coperta uscirono urlando e si buttarono in acqua come torce umane. Ne raccogliemmo due. Fu terribile. Alle 8.47, a 17 minuti dall'inizio dell'attacco, la postazione 53 viene investita in pieno. Il motore del Val mette fuori uso il cannone da 127 mm. Il carburante si disperde sull'affusto e prende fuoco. Nel corso dell'attacco, uno dei kamikaze passa oltre il cacciatorpediniere Leffe e punta sull'LCS-51 che lo affianca a babordo. Ancora Jack Fowlas. Uno degli aerei volava a circa 3 metri dall'acqua. Tutte le armi da quel lato hanno fatto fuoco. Quando era circa 10 metri, lo abbiamo colpito insieme alla bomba che aveva a bordo. È finito in mille pezzi. Il motore ci è finito sulla fiancata. Il mio osservatore, che era con me nella centrale di tiro, si è coperto il viso con il braccio. Quando tutto è finito, il suo braccio era stato colpito da 3 o 4 pezzi di alluminio provenienti dall'aereo. Sulla Leffe, un incendio divampa a poppa. Il capitano Becton è costretto a rallentare. Ma un altro Val si avvicina, attirato dalle fiamme come uno squalo che percepisce l'odore del sangue. La nave tenta una manovra evasiva, virando a babordo. Stavolta non si tratta di un kamikaze. Spesso anche i bombardieri tradizionali partecipano a queste missioni. Un unico ordigno da 220 kg colpisce il cacciatorpediniere. Il timone si blocca con un angolo di 26 gradi a babordo. Carl Zingheim, museo della USS Midway. Ciò significa che la nave ora poteva soltanto navigare in circolo verso sinistra. Il capitano Becton poteva tentare di variare la velocità del motore per allargare o stringere l'angolo di virata, ma la capacità difensiva della nave era gravemente compromessa. Gli incendi si moltiplicano. Il timone è bloccato. Tutto ormai sembra perduto. 4 FM2 Wildcat della Marina, squadriglia DC-94, decollano dalla portaerei Shamrock Bay per cercare di salvare la nave. Il capo formazione, Carl Riemann, ha già assistito ad altre missioni kamikaze ed è consapevole dell'urgenza della missione. Li avevo visti colpire diverse navi e vi dico la verità, quando centravano il bersaglio facevano un bel botto. Quando Riemann arriva, valuta la situazione. Il rapporto delle forze è di 50 contro 4. Inoltre, gli FM2 hanno solo 1600 colpi, sufficienti per una scarica di 45 secondi. Riemann dovrà fare affidamento sulla maggiore velocità e agilità del suo apparecchio. Si tratta di una versione aggiornata del glorioso F4F Wildcat. Dispone di un motore più potente, da 1260 cavalli vapore. è decisamente superiore agli aerei obsoleti che attaccano la Leffi. Riemann e il suo gregario Dick Colley salgono 150 metri al di sopra della formazione kamikaze, scelgono un bersaglio e picchiano lateralmente. Riemann fende l'aria puntando le sue mitragliatrici da 12,7 mm. Colley era proprio davanti a me e mi è finito davanti. Perciò se avessi sparato avrei colpito lui. Il gregario abbatte il giapponese. Lo centra in pieno, facendo esplodere i serbatoi sull'aria. Siamo stati così rapidi che non hanno avuto il tempo di reagire. Non potevano far altro che scendere di quota. Ci sono ancora più di 40 kamikaze alle costole della Leffi. La formazione è così imponente che qualche aereo supera le difese contraeree. Devastato dalla carneficina, Riemann punta su un kamikaze per vendicare i compagni. I kamikaze sono poco più che reclute. Il Giappone ha già perso in guerra gran parte dei piloti più abili ed esperti. Due piloti kamikaze sfuggono ai caccia e iniziano la loro mortale discesa sulla Leffi. Quando erano abbastanza vicini, riuscivamo a vedere il pilota in cabina di pilotaggio. E mentre ci puntava contro l'aereo, guardava dritto davanti a sé. E non riesci proprio a immaginare cosa passa per la testa di una persona che sta per fare una cosa del genere. Riemann effettua delle manovre di disturbo, costringendo alcuni kamikaze a interrompere gli attacchi. Ma alla fine, ormai a corto di carburante, la sua formazione deve rientrare alla base. Ne abbiamo abbattuti sei aerei che non avrebbero colpito la Leffi. Ci dispiaceva solo di non poter togliere di mezzo anche gli altri. La nave bruciava. Pensavo che fosse condannata. Il cacciatorpediniere è stato colpito da 5 kamikaze e 3 bombe. Qualcuno suggerisce di gettare la spugna, ma il capitano risponde indignato: finché anche un solo cannone potrà sparare, io non abbandono la nave. Poi, quando tutto sembra perduto, una dozzina di caccia americani Corsair attacca i kamikaze. Per la Leffi in fiamme, rappresentano l'ultima speranza. Alcuni kamikaze hanno colpito più volte la USS Leffi e almeno altri 30 aerei sono pronti ad attaccare. Ma a questo punto intervengono gli F-4U Corsair del Corpo dei Marini. Johnny Walker, presidente associazione USS Leffi. Abbiamo guardato in alto e li abbiamo visti. Ce ne hanno levati parecchi di dosso, perché da quel momento li hanno tenuti impegnati. Infine, il 22esimo e ultimo bombardiere, un Judy, si lancia in picchiata. Un Corsair lo abbatte prima che possa colpire il bersaglio. Ora si sente solo il rombo dei motori da 2000 cavalli dei caccia americani. Dopo 80 minuti di combattimento ininterrotto, dopo essere stato colpito da ben 6 kamikaze e da 4 bombe, la Leffi è ancora a galla. 32 dei 355 membri dell'equipaggio sono morti e altri 71 sono feriti. Ma il cacciatorpediniere è sopravvissuto all'attacco. Ho perso un sacco di buoni amici e molti sono rimasti feriti. Io non mi sono fatto nemmeno un graffio. Ho pensato a quanto ero stato fortunato. Prima di chiudere, vi ricordiamo che la versione integrale del documentario che avete appena ascoltato andrà in onda su History Channel domani alle 4.45. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Daniele Casagrande. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.